se se un giorno ti dovessi sentire come me, sfoga la rabbia che hai nello stesso identico modo, nonostante siano passati 4 anni ancora no al mic, al chiodo. Se spingi questa merda finché non muori, fra, vai. Ho un senso di vuoto che mi dà il tormento, rispondo bene a come stai, ma non sanno che mento, parlo da solo, mi agito. Sono un complessato senza uscita, sempre in panico, paura di notte, mentre sto nel letto sudo forte, impregno il cuscino, sto in para, senza una ragione sana, in ansia per gli incubi, sembro un bambino. Ma che ne sai, tu che giudichi sempre, non parlare più. Ma che ne sai, tu che giudichi sempre, non parlare più, non parlare più. Sono cresciuto, non sono un bambino, non so un cazzo di me, non so ogni giorno il casino che vivo. Non parlare, no, non parlare, no. Ma che ne sa, tu che giudichi sempre, non parlare più, non parlare, no. Scusami se non incastro, prima la perfezione, ma commenti ogni mia fottuta azione, maledico il giorno in cui ho cominciato, sono dannato come una droga, mi ha reso condannato, avere rime per esprimersi può sembrare bello, poi vorresti legare la corda e saltare dallo sgabello. Nei meandri del mio animo cerco una ragione di vita, trovo ancora lei, ma starci a fianco mi irrita. A musiche sparanze come dice Finizio, sono in debito con sta roba, pagherò il mio indennizzo. Non si tratta di flow, di metriche, di fare il figo, voglio farvi medesimare in ciò che dico. Questo è il mio rap, può anche non piacere, di certo non mi fermo, non faccio mica il vostro volere. Se aspetti questo è inutile farlo, lo farò anche senza un euro, levati sto tarlo. Ma che ne sa, tu che giudichi sempre, non parlare più. Ma che ne sa, tu che giudichi sempre, non parlare più, non parlare più. Sono cresciuto, non sono un bambino, non so un cazzo di me, non so ogni giorno il casino che vivo. Non parlare, no, non parlare, no. Tu che giudichi sempre, non parlare più, non parlare più.